Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in cui, come sempre, ogni venerdì avremo la nostra poco invidiabile classifica dei 5 sprechi della settimana. Oggi non l'abbiamo fatto apposta, giuro, ma la prevalenza dei temi legati alla sanità, dico non l'abbiamo fatto apposta perché uno dei temi di questa settimana è stato proprio il confronto, alcuni hanno chiamato braccio di ferro, tra le regioni e il governo quanto a legge di stabilità e anche e soprattutto sui trasferimenti per la sanità. I nostri casi sono casi di spreco che dimostrano come, al di là delle legittime richieste, soprattutto se una regione è virtuosa, poi però dentro le regioni sulla sanità capiti un po' di tutto. Comunque di questo parleremo anche della vicenda Telecom Italia. Che cosa è successo? Beh, a sorpresa, ieri su indicazione del presidente di Telecom Recchi è stata votata e approvata la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Le azioni di risparmio sono azioni che hanno dei vantaggi e degli svantaggi, per esempio in alcuni casi queste erano convertibili, perché c'è anche dei risparmi non convertibili, danno dividendi maggiori ma non danno diritto di voto, insomma. In questo caso però l'effetto è un altro, e cioè avere trasformato azioni che prima non erano azioni normali in azioni normali, spieghiamola così, ha di fatto diluito il capitale. Cioè, se prima tu avevi il 10% fatte 1000 le azioni, e quindi avevi 100 azioni, se le azioni diventano 2000, le tue 100 azioni rappresentano il 5%. Perché lo dico? Perché questo ha avuto l'effetto immediato di diluire le quote dei due francesi, e quindi Javier Niel da una parte, ma soprattutto Bolloré dall'altra. Il titolo, tra virgolette, ne ha preso atto, non ha perso tantissimo, è il peggiore comunque in questa giornata. Telecom Italia perde il 2%, ma la cosa più importante è la lettura che si dà di questa operazione. Non sono stati annullati i pesi, diciamo, dei due francesi, ma sicuramente ridotti con il meccanismo che spiegavo prima. Chi scrive neutralizzati, a mio avviso, è troppo ottimista o esagera in ogni caso, ma sicuramente sono stati ridotti. E sullo sfondo c'è sempre poi l'operazione a cui tiene molto il governo, tiene molto la Cassa Depositi e Prestiti, l'operazione Metro Web, incontra molte più resistenze in Telecom Italia, anche perché risulterebbe un matrimonio, cerco di spiegarla così, alla pari, quando alla pari però i due possibili sposi non lo sono. Uno porta una grossa dote e l'altro molto meno, allora trattarli allo stesso modo diventerebbe un po' strano. Questa è l'obiezione che fanno in Telecom Italia sull'ipotesi del governo. Comunque, andiamo avanti con le notizie. Questo per quello che riguarda Telecom Italia. La borsa guadagna complessivamente l'1,20%. Per quello che riguarda Parigi, rialzo dello 0,10%, Francoforte più 0,90%, Londra meno 0,11%, l'America meno 0,15%. L'Italia va nettamente meglio delle altre borse europee. Perché? Perché c'è Unipol che guadagna 7,10%, e qui abbiamo notizia, ma soprattutto continua la corsa. Unipol abbiamo notizia perché ci sono i conti, è una settimana di trimestrali anche questa, conti superiori alle previsioni, l'utile è salito del 38% a 594 milioni, la raccolta ha fatto meno 6, però oltre a questo i conti sono arrivati anche per Azimut, che guadagna il 3,80%, anche qui il numero 1 Pietro Giuliani ha commentato i risultati, più 68% l'utile nei primi 9 mesi dell'anno. Raccolta risparmio gestito. Anima Holding più 4,30%, Buzzi Unicem più 4%, poi c'è Finmeccanica più 3,30% e poi le banche, Banco Popolare più 3,20%, Monte dei Paschi più 3%, Intesa San Paolo più 2,5%, Unipol Sai più 2,80%, ancora vedo gli altri titoli, Ubibanca più 2,40%, Generali più 2,30%, Pop Emilia Romagna più 2,20%. Sui non bancari ST Microelectronics guadagna il 2,30%, Exor l'1,80%, poi c'è Unicredit che guadagna l'1,80%. I bancari pesano molto nel nostro listino, non è un caso che Milano guadagni tra il mezzo punto e il punto percentuale più delle altre borse europee. Tra chi perde, oltre a Telecom, c'è anche Ferragamo, meno 1,60, Saipem, meno 1,1. Per cento l'euro è sotto quota anche 1,08, è arrivato anche vicino a quota 1,069, siamo 1,07, comunque ai minimi da 6 mesi a questa parte. E il motivo per cui l'euro cala sarà uno degli approfondimenti di questa puntata. I dati usciti oggi dall'America, li cito e poi ne parliamo dopo le 18, sono particolarmente positivi, nel senso che la disoccupazione è calata al 5%, non è mai stata così bassa dall'aprile del 2008, quindi è un'ulteriore conferma che l'America ha ripreso tutti i livelli precedenti alla crisi. Si sono creati nel mese di ottobre 271.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. E cosa è successo? Questo ha fatto ragionare il mercato. Bene, se l'America, se l'economia statunitense sta girando a una velocità più che buona e gli occupati, perché quello, a differenza della Banca Centrale Europea di, diciamo, ispirazione tedesca, la Federal Reserve nel suo mandato, lo ha detto molto chiaramente quando esplose la crisi, aveva in primo luogo il ripristino dei livelli occupazionali, cioè il ridurre la disoccupazione che si stava generando. Poi c'era l'inflazione e il deficit. Noi abbiamo un altro sistema della disoccupazione in Europa, non frega niente a nessuno nell'area euro, o meglio, Mario Draghi ne parla così, ma come mandato la BCE non può usare quello come riferimento. L'unica cosa che la BCE può guardare è l'inflazione, anche quando l'inflazione non è un problema, ed è per questo che Mario Draghi ha giustificato i suoi interventi legandoli al rischio di un'inflazione troppo bassa, perché gli permette formalmente di intervenire, perché non potrebbe intervenire dicendo semplicemente la disoccupazione è troppo alta. So che sembra un assurdo, ma è il tipo di banca centrale europea tutta monetarista, tutta legata al modello Bundesbank che ci siamo beccati quando abbiamo fatto l'Europa, e che la Germania rivendica con forza e ha rivendicato con forza infine a pochi mesi fa, quando poi è venuta meno la voce, ma per altri motivi. Dicevo, negli Stati Uniti invece si è ricreata un'economia che corre e che tira. Il ragionamento che fa il mercato a questo punto, l'aumento dei tassi di interesse di Janet Yellen si fa ancora più vicino, e di conseguenza, aumentando i tassi di interesse americani, aumenterà il valore del dollaro, cioè il tasso di interesse è quanto rende quella moneta, il tasso di interesse sulla valuta, e quindi vanno a comprare dollari e a vendere euro. Ecco perché l'euro scende 1,07, con un beneficio ulteriore per noi, per le nostre esportazioni, anche perché nel frattempo il petrolio continua a non dare grossi problemi. È vero che è salito del 2% l'altro ieri, ma siamo oggi a un meno 0,7 a 44 dollari al barile, quindi sempre sotto i 50 dollari al barile. Anche di questo parleremo. Telecom, quindi, e dati americani particolarmente buoni. Rapidamente le altre notizie in breve. Che riguarda Volkswagen. Mentre nei giorni scorsi le agenzie di rating Standard & Poor's in particolare avevano abbassato il voto di Volkswagen ulteriormente, adesso Moody's, una delle tre agenzie di rating al mondo, stima che l'impatto del Dieselgate su Volkswagen possa andare dai 9 miliardi e mezzo di dollari nel caso più favorevole, fino ai 31 miliardi nel caso diciamo più sfavorevole. E da questo punto di vista questa stima, fa notare però, è stata fatta prima che lo scandalo Volkswagen si allargasse anche ai motori a benzina e all'anidride carbonica come emissioni, quindi ulteriormente. Diciamo che se uno volesse essere pilatesco, fa una media a metà, dice vabbè, costerà più o meno la Volkswagen intorno ai 20 miliardi di euro, immaginando che non sia né la situazione più favorevole, 9 miliardi e mezzo, né quella peggiore, 31 miliardi. 20 miliardi è ben al di sopra dei 6 miliardi e mezzo accantonati da Volkswagen per far fronte alle cause legali e alle sanzioni. Economia internazionale, dicevo, il Brasile continua a non dar tregua all'inflazione. In Brasile invece ha toccato il 9,93%, è il livello più alto dal 2003, e secondo la Banca Centrale Brasiliana l'obiettivo del 4,5% sarà raggiunto solo nel 2017. Per quello che riguarda invece l'Europa, oggi è arrivato un appello molto forte da Bruxelles a convocare per lunedì prossimo una riunione straordinaria dei ministri dell'industria dei 28 paesi, perché l'industria siderurgica europea è in ginocchio e ha chiesto all'Unione Europea di intervenire prendendo soprattutto misure anti-dumping contro le importazioni dalla Cina. Cosa vuol dire dumping? Vuol dire quando tu vendi sotto il prezzo di mercato, quindi sostanzialmente perdendoci, pur di danneggiare il concorrente. Sono pratiche non concesse, cioè tu non puoi iniziare a svendere un bene per buttare fuori dal mercato il concorrente, perché magari tu hai un patrimonio più solido, puoi anche permetterti delle perdite, ma se lo vendi sotto il prezzo di costo è chiaro che tutti gli altri saltano per aria. E l'accusa della Cina, l'accusa verso la Cina è questa, cioè di avere un'attività e di usare il dumping nel vendere l'acciaio in Europa. La Cina che cos'è che ha come problema? Ha una sovracapacità, siccome è rallentata la sua economia, si è ritrovata con una sovracapacità produttiva, cioè più fabbriche che domanda, pari a 340 milioni di tonnellate, e quindi sta inondando a prezzi stracciati l'Unione Europea. Non a caso nel calo arrivato a sorpresa alla produzione industriale tedesca, meno 1,1%, su questo calo pesano moltissimo il rallentamento della Cina e dei paesi emergenti. Adesso lo dico, questo dimostra alla Germania che aver puntato dal 2007 in poi tutto sui paesi emergenti, i famosi BRICS, adesso fantomatici perché a parte l'India sono tutti in ginocchio, Albania in ginocchio, la Russia in ginocchio, Brasile in ginocchio, la Cina comunque cresce molto meno delle attese. Dicevo, aver puntato sui BRICS e avere trascurato il mercato interno dell'Unione Europea con l'atteggiamento che abbiamo visto, voi risanate i conti, chi se ne frega se questo crea disoccupazione, fa crollare i consumi italiani, francesi, spagnoli, portoghesi, adesso verrebbe voglia di dire, adesso vediamo come fai, visto che rallenta tutta la domanda su cui avevi puntato, cinese, brasiliana, sud-est asiatico, e ti accorgi che avere mollato, che avere non mollato il colpo, ma insistito per un rigore senza crescita e avere quindi distrutto i consumi nell'area euro penalizza alla fine anche a te. L'avevamo detto, ma non per dire l'avevamo detto, è che era prevedibile, ma sappiamo che i tedeschi hanno tantissime virtù, ma la lungimiranza non è tra queste. Nel frattempo però noi ci siamo beccati la seconda recessione nell'area euro, tutto ciò che ha conseguito, il fiscal compact, misure draconiane, la Grecia in ginocchio, vabbè. Mi chiedete sulla Volkswagen per quello che riguarda le emissioni di anidride carbonica. Sì, perché cos'è successo? L'origine dei dati falsi riguarda anche i valori delle emissioni di CO2 di centinaia di migliaia di auto Volkswagen. Sarebbero stati manipolati i test antismog e i veicoli stessi. È avvenuta questa falsificazione dei dati attraverso una manipolazione delle procedure di misurazione o manomissione delle auto sottoposte alla prova, lo scrive l'agenzia tedesca citando un portavoce del colosso di Wolfsburg. La stessa Volkswagen ha reso noto come per circa 800.000 auto risultassero falsati i valori anche delle emissioni di CO2, 100.000 di questi sono a benzina. Nel frattempo Walter De Silva, responsabile design del gruppo Volkswagen e presidente di Ital Design, ha lasciato la società e il gruppo. De Silva, 65 anni, è andato in pensione. Ricordo che ha disegnato dal 99 auto famose non solo per il gruppo Volkswagen, disegnò l'Alfa 156, l'Alfa 147, la Volkswagen Polo, la Golf, la Passat, ha vinto per 5 volte il titolo, le sue auto hanno vinto per 5 volte il titolo di auto dell'anno. Allora c'è così un po' di polemica sulle parole del Presidente del Consiglio sul ponte sullo stretto. Allora, la frase esatta riferita dal libro di Bruno Vespa, Donne d'Italia, è a domanda: ma si farà il ponte sullo stretto? Il Premier ha risposto: certo che si farà, il problema è quando. Ora, prima di discutere del ponte, sistemiamo l'acqua di Messina, i depuratori, le bonifiche, investiamo 2 miliardi nei prossimi 5 anni in Sicilia per le strade e ferrovie e poi faremo anche il ponte. Allora, sono due fronti diversi. Chi vi parla da sempre, da quando il progetto fu messo giù, abbiamo anche, siamo in contenzioso per lo studio di fattibilità, disse che il ponte sullo stretto di Messina, così come era congegnato era come la corazzata Potemkin, ok? Perché le ferrovie siciliane viaggiano in binario, perché non era la priorità di quell'isola e delle opere infrastrutturali, finisci la Salerno-Reggio Calabria e quant'altro. E comunque non, era una cosa per cui non si capiva l'urgenza, a meno che uno non voglia avere cattivi pensieri, e sapendo che quello è un ponte che collega Calabria con la Sicilia, dovesse immaginare un'urgenza della criminalità organizzata nel gestire poi i lavori di questo ponte. Però Renzi dice una cosa diversa. Mi sembra comunque, così, se posso permettermi, fuori tempo. Cioè, stiamo commentando Messina di nuovo senza acqua perché si è guastato il bypass che collegava l'acquedotto dell'Alcantara all'altezza di Forza d'Agro. Cioè, nel 2015 manco un bypass si riesce a fare, capito? Per l'acqua, non per il cuore. E va bene, e adesso mandano l'esercito, la solita pantomima, l'esercito per gestire l'acqua. E va bene, e ora parlare di dire il ponte si farà, ma non siamo riusciti, abbia pazienza perché il consiglio, è 20 anni che parliamo, la Salerno-Reggio Calabria è 30 anni, facciamo le cose, vediamo qual è il piano industriale per la Sicilia, per la rete ferroviaria siciliana, perché avere un ponte dove poi ti trovi col binario unico non ha senso. Capire come si sistema la situazione idrica con tutti gli interessi che la mafia ha da sempre nella gestione dell'acqua in Sicilia. Dopodiché si può aprire anche un dibattito e vedere se ha un senso o no fare il ponte, ma dire nei prossimi 5 anni sistemiamo le strade e le ferrovie in Sicilia, guardi, se riuscite a sistemare le strade e le ferrovie in Sicilia in 5 anni, compresa la Reggio Calabria, saremo noi a portare il tema subito del ponte sullo Stretto, se no è un modo per così fare individuare dei possibili grossi investimenti, ma sul nulla. Sarebbe come io che sto zoppicando ancora per sto malleolo, mi mettessi a dire: beh, il prossimo anno vorrei fare le Olimpiadi per i quarantenni, ma uno dice: ma sistemati sta gamba e poi vedi cosa succede, visto che non ne stai uscendo. Allora di che cosa stiamo parlando? Poi si crea polemica, ho capito, perché questa frase esce nel momento in cui Messina è senza acqua e De Vincenti dice: accompagniamo lo stato d'emergenza con un primo stanziamento per i lavori necessari, mettiamo a disposizione anche l'esercito e i mezzi militari. Sì, va bene, in una regione che ha 24.000 dipendenti della regione del corpo forestale, 20.000 dipendenti della regione, 20.000 precari nella regione, siamo a quota 64.000, ma giustamente mandiamo l'esercito, perché non c'è nessuno in Sicilia che si possa occupare, non dico che tutti questi 64.000 si possono occupare, ma qualche migliaio della situazione idrogeologica, del dissesto del territorio. Mandiamo l'esercito. Questo è un modo vecchio di affrontare questioni vecchie, altro che ponte sullo stretto. De Vincenti, comunque. Subito il potenziamento dei servizi di emergenza. Ricordo appunto che è stata mobilitata anche una nave militare per portare una nave cisterna militare e un potenziamento del servizio di autobotti. Naturalmente la partita di fondo si gioca sulla rimessa in funzione dell'acquedotto. Accompagniamo la dichiarazione di stato di emergenza con un primo stanziamento per i lavori necessari e mettiamo a disposizione la protezione civile e anche l'esercito e i mezzi militari. Ripeto, il primo compito che abbiamo oggi è fornire l'acqua alla popolazione della città di Messina. In prospettiva però dobbiamo sapere che si deve cambiare musica. L'arretratezza di quella rete acquedottistica non è da degna di una città, di un paese avanzato. Bisogna cambiare il modo in cui si gestiscono i servizi idrici in quell'area, che risentono di gestioni arretrate, gestioni non industriali. No, guardi, De Vincenti, lei ha ragione, ma gestioni non industriali, non accettabili. Poi diciamola tutta, abbiate il coraggio di pronunciare la parola mafia sulla gestione della situazione idrica in Sicilia. Lo sappiamo tutti, insomma, che dietro ci sono dei motivi molto chiari. Toccherà fare un altro approfondimento sulle dighe fatte e mai aperte, perché la mafia ci guadagna con le autobotti da sempre, soprattutto nel centro della Sicilia, lo sappiamo noi. Comunque, la Pinotti, forze armate attive, appena avvisate. Sì, dai, i Marines. Appena l'esercito, le forze armate sono state attivate e si sono mosse immediatamente. Ovviamente questo non è un compito precipuo delle forze armate, quindi l'attivazione deve avvenire dalle autorità locali, ma da quando siamo stati avvisati noi non abbiamo fatto passare neanche poche ore per intervenire. Il primo intervento è stato quello dell'invio di 4 autobotti dell'esercito di 8.000 litri ciascuna, e poi abbiamo mandato anche una nave portacqua, come diceva il sottosegretario De Vincenti, proprio perché l'emergenza era di tale rilevanza. Per questo secondo problema, quello che ha raccontato il sottosegretario, cioè il tema dell'acquedotto che non si riesce a ripristinare a causa frane, già ieri i nostri ingegneri dell'esercito, del Genio, sono ovviamente in contatto con la protezione civile, stanno analizzando la situazione, perché l'intervento non è semplice, ma diamo la massima disponibilità, perché condividiamo quanto ha detto il sottosegretario De Vincenti, la situazione va assolutamente risolta. Eppur nelle difficoltà tecniche che possono esserci, dobbiamo fare un intervento massiccio, perché non è accettabile che i cittadini di Messina possano ancora trovarsi in queste condizioni. E così il ministro Pinotti. Poi a me piacerebbe anche vedere se qualcuno si dimetterà a Messina. Ma il sindaco, io ho ereditato una situazione precedente. Ho capito, qualcuno si dimette o no? Voglio dire, in Romania, non in Svezia, in Romania è stato travolto dalle polemiche per, ahimè, le decine di morti in quella discoteca, lo stesso Presidente del Consiglio, che poi non solo per questo ma si è dimesso. Noi non vogliamo prendere esempio dalla Romania, ma vorremmo che qualcuno a Messina ammettesse che è uno schifo arrivare a questi livelli, perché una frana neanche riesce a fare. Beh, qualcuno che dica sì, mi dimetto. Aspetta, no, l'esercito, che dopo le capre, la Marina si occupa delle capre, l'abbiamo raccontato la volta scorsa, e l'esercito si occupa dell'acqua. Comunque, a chi mi scrive, ma insomma c'è qualcosa di Renzi che le piace, senta, ma sei comunista? Sì, sono comunista, a parte che le ricordo che Renzi è il segretario del PD, e il fatto che lei mi chieda se sono comunista perché attacco Renzi la dice lunga, diciamo, sulla confusione che anche aleggia. Ma se plaudiamo il governo quando ricorda i dati della crescita economica, siamo renziani. Se non lo siamo, se diciamo che il ponte sullo stretto è come la corazzata Potemkin, in questo momento, con quello che abbiamo visto, quando vedremo tutto a posto, diremo bene, ragioniamo, siamo comunisti, ok. Allora, la sanità, visto che stiamo per iniziare la classifica poco invidiabile che riguarda oggi molto la sanità, oggi il ministro della sanità Beatrice Lorenzin, dopo il Consiglio dei Ministri, ha annunciato che il Consiglio dei Ministri ha varato una norma specifica che riguarda il cosiddetto payback per la spesa farmaceutica, e una norma che consente la continuità dei servizi sanitari anche se una struttura sanitaria debba essere collocata in amministrazione sanitaria. Allora, in amministrazione straordinaria, scusatemi, c'è un errore nell'agenzia, quindi in caso di commissariamento. Sentiamo le misure sul commissariamento. È una norma che definisco giusta e importante, che è quella di estendere i provvedimenti legati alla corruzione, legati al cosiddetto decreto Cantone, di commissariamento non solo alle imprese che sono coinvolte in vicende di corruzione, ma anche a quelle, e stiamo parlando di strutture sanitarie private accreditate, che versano in situazioni di anomalia gestionale e condotte illecite. Questo allo scopo di, estendendo la norma di commissariamento dell'anticorruzione a queste strutture, di mantenere il servizio per i cittadini. Stiamo parlando ovviamente di strutture private accreditate, e quindi che svolgono un'attività dentro la rete ospedaliera delle singole città, e questo ci permetterà, in casi, speriamo che non si verificano, ma quando si dovessero verificare, di mantenere il servizio e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza in quelle porzioni di territorio. Allora, dopo andiamo alle notizie della classifica, due notizie in breve. La prima riguarda la lira, già uscita sui giornali, ma la ricordo, la Corte Costituzionale, quella che quando ne parli con un diciottenne ti guarda con gli occhi sbarrati. Allora, la Corte Costituzionale ha bocciato il provvedimento con cui nel 2011 il governo Monti stabilì con decorrenza immediata la prescrizione anticipata delle lire ancora in circolazione a favore delle casse dello Stato per ridurre il debito pubblico. Quindi la prescrizione anticipata della lira non è più valida. I consumatori con Adusbef e Federconsumatori invitano i cittadini che volessero convertire l'lira a recarsi da oggi per circa 3 mesi in uno sportello della Banca d'Italia e pretendere il cambio in euro da convertire più o meno 1.200.000.000, 1.400.000.000 di vecchie lire, quindi intorno ai 600-700 milioni di euro. Io mi chiedo che cosa se ne tenga a fare, se è un bene affettivo non convertirlo, se no convertilo da questo punto di vista. E poi non sto scherzando, lancio un test prima del meteo, non è tra le 5 notizie, perché, ma secondo voi se un'amministrazione comunale, mamma mia che voce oggi, deve intitolare una via a Louis Braille, il fondatore del metodo dell'alfabeto per i non vedenti, dell'alfabeto per i ciechi, il metodo Braille, che via andrà a dedicare all'inventore dell'alfabeto per i ciechi? Non sto scherzando, dopo il meteo la risposta. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. La classifica della settimana. Allora, al 349-238-6666 e anche sulla pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 siamo stati inondati di messaggi. Purtroppo molti di voi hanno vinto. La domanda era: un'amministrazione comunale a chi può, quale via può più dedicare all'inventore dell'alfabeto per non vedenti? E quindi lui Braille, avete ragione, un vicolo cieco, non sto scherzando, è successo. No, c'è uno che mi ha scritto, allora, i ciechi, noi con l'Unione Italiana Ciechi abbiamo da sempre un rapporto bellissimo, anche perché, come è immaginabile, il mezzo radiofonico in generale, non solo il nostro, è un mezzo fondamentale per i non vedenti, per cui giustamente nel buttarla in maniera ironica un ascoltatore dice: vuoi vedere che l'hanno chiamata via Belvedere? Ecco, purtroppo o per fortuna, no, ma sono riusciti al settimo torinese a intitolare a Louis Braille un vicolo cieco, cioè un vicolo che non finisce in nulla se non in aperta campagna. Poi l'ex sindaco Fabrizio Puppo ha detto: questa l'ha fatto l'amministrazione precedente, quella via non doveva finire in aperta campagna ma essere collegata a un'altra via. Vabbè. Almeno l'associazione ipovedenti e retinopatici non se l'è presa, ha detto: non credo che il comune abbia voluto farci un dispetto, questo non lo crediamo neanche noi. Almeno ha accolto la nostra richiesta di intitolare una via, un corso a Braille, mentre altri comuni non l'hanno fatta. Comunque guarda, è il massimo, il vicolo cieco intitolato a Braille è il massimo. Andiamo sugli sprechi seri, partiamo dal quinto posto, andiamo rapidi oggi, si fa per dire. Allora, si chiama Carmelo Geraci, fa il medico di famiglia ed è riuscito in un sol giorno a farsi accreditare, sapete come funziona con i medici di base? Per ogni assistito un medico di base percepisce 110 euro l'anno. Lui in un sol giorno ha visto lievitare i suoi assistiti di ben 770 pazienti in un giorno. Che cosa ha fatto? Beh, ha pagato un hacker, ha truccato il sistema informatico, se ne ha approfittato che un altro medico di base fosse andato in pensione e si è fatto girare tutti gli assistiti dell'altro medico a se stesso, con un vantaggio economico quantificato fino adesso in circa 12.000 euro al mese, sono più o meno 30.000 euro fino adesso. Se ne sono accorti i pazienti che, non avendo mai chiesto di essere curati da quel medico di base, che hanno chiesto spiegazioni. Si sono accorti in un giorno solo 770 pazienti e dal quinto posto, ma è niente, andiamo a risalire la classifica rispetto a quanto è riuscita a fare la Regione Sicilia su un tema delicatissimo, e mi riferisco a chi all'interno dei dipendenti della Regione ha sostanzialmente avuto, deve essere tutelato per avere collaborato con la giustizia e quindi aver fatto il testimone nei confronti anche di processi di mafia. Che cosa succede? C'è una norma che ha anche un finalità nobile, perché riconosce una tutela a chi ha denunciato estorsioni e omicidi, una norma della regione che prevede sostanzialmente che i dipendenti, le persone che abbiano fatto queste denunce, debbano essere trasferiti fuori dalla Sicilia. Allora, qual è il problema? Che l'unico ufficio sopra Reggio Calabria, c'è Bruxelles, ma è escluso per ovvie ragioni di costi, è Roma. Quindi cos'è? La Regione Sicilia che cosa fa? Manda 43 dipendenti tutelati appunto dal riconoscimento perché hanno denunciato estorsioni e omicidi, li manda tutti e 43 nell'ufficio che ha a Roma. Ora, ci sono un po' di problemi, non ci sono le stanze per tutti, i neoassunti sono stipati in una sala conferenze, i colleghi si lamentano, la responsabile dell'ufficio della Regione Sicilia a Roma, Maria Stimolo, scrive ai vertici, dice, ma quali mansioni dobbiamo far fare a questi nuovi impiegati, perché non lo sappiamo, sono 43, non sono pochi. La legge regionale non dice nulla infatti sull'inquadramento, dice che devono avere una nuova identità, quindi molti di questi, avendo una nuova identità, non hanno neanche un curriculum, e vorrei anche vedere, ti fai la nuova identità e come fai ad avere un curriculum? Tra l'altro non è hanno scartato i compiti più umili, li hanno affiancati ai testimoni, ma appunto assiepando in un'unica stanza. La cosa ancora più avvilente è che questi testimoni di giustizia non godono di chissà quali privilegi, hanno circa 1200 euro al mese di stipendio, sono tutti a spesa della regione, finiti a Roma, dovrebbero restare nella capitale solo in parcheggio, non sto scherzando. È stato proposto un trasferimento in altre sedi per raggiungere le famiglie che a loro volta, essendo protette in quanto testimoni di giustizia, vivono in altre regioni. Da 5 mesi è fermo un protocollo d'intesa con la conferenza delle regioni per collocare questo personale, e quindi c'è una resistenza degli altri enti a prendersi carico di dipendenti assunti con una legge da una regione che ha, ripeto, 20.000 dipendenti e 20.000 precari. Praticamente, oltre che inutile e dannoso trasferire tutti i 43 nella stanza, diciamo, una sala conferenze nella sede della Regione Sicilia a Roma, che già sarebbe opinabile perché la Regione Sicilia deve avere una sede del genere a Roma, ma è anche umiliante per persone che stanno collaborando per far rinascere il senso morale in Sicilia, quindi stanno facendo un'operazione proprio per la Regione Sicilia. Io chiedo anche alle altre regioni di arrivare a un accordo il prima possibile. È umiliante essere trattati come un peso, essere visti come un peso, essere chiusi in una sala conferenza, avere la famiglia delle altre regioni per la sola colpa di aver testimoniato e denunciato estorsioni e omicidi di carattere mafioso. Ma tanto, apriamoci il ponte sullo stretto. Al terzo posto. Allora, in realtà è una buona notizia che riguarda un ospedale di cui ci siamo occupati, l'ospedale privato di Mezzaseve in provincia di Vicenza, dove la regione aveva bloccato tutto e in maniera incomprensibile, visto che i soldi erano dei privati, le assunzioni erano dei privati, avevano fatto risparmiare la regione. Qui c'è una buona notizia, ve la do dopo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. La classifica della settimana. Terzo posto, quindi, l'ospedale privato di Mezzaseve. Cos'era successo? Ci aveva scritto il professor Giorgio Rizzato, direttore scientifico del NIREM, denunciando il fatto che nonostante loro avessero fatto dal novembre 2013 tutti i lavori di ristrutturazione regolarmente autorizzati dal comune di Roana, quindi facendo risparmiare 1 milione di euro alla regione Veneto, e dopo aver fatto 9 mesi di lavoro di ristrutturazione, creato 40 posti letto e servizi ambulatoriali, aver assunto 70 persone, aver avuto già 200 pazienti privati in lista e spendendo già 200.000 euro al mese, la Regione Veneto non li aveva autorizzati e non avevano chiesto nessuna convenzione con la Regione, perché non c'erano soldi pubblici da questo punto di vista, soldi pubblici, la Regione non li aveva autorizzati. Nonostante, ripeto, abbia risparmiato 1 milione di euro per il risanamento e avrebbe risparmiato oltre 200.000 euro al mese, in quanto i pazienti erano totalmente paganti, non venivano caricati sul Servizio Sanitario Nazionale. 2,5 milioni di euro buttati alle ortiche dei fondi privati, chi pagherà? Ora, la buona notizia è che il 30 ottobre il TAR del Veneto ha emesso una sentenza immediatamente esecutiva nella quale condanna la Regione Veneto a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'ospedale privato di Mezza Selva, e quindi verrà trasmessa l'informativa alla Corte dei Conti, alla procura competente, e la Regione è altresì condannata a pagare le spese di processo oltre ai danni milionari. Buona notizia, perché una volta che i privati fanno una struttura, se la vogliono gestire privatamente, non chiedono un euro di pubblico, non vogliono convenzioni, e ci sono 200 persone in lista d'attesa che pagano i soldi loro e tu non li fai partire perché non rientrava nel piano regionale Veneto, ma di che stiamo parlando? Si occupi giustamente la Regione Veneto, che ha delle eccellenze enormi nella sanità, di altri casi, penso al Residence per anziani di Vicenza, quello dove hanno trovato piaghe del cubito, vermi nei letti e quant'altro. Comunque ripeto, in una struttura sanitaria quella veneta che è tra le migliori in Italia, prima che ci chiami governatore Zaia, l'ho già detto io. Andiamo al secondo posto. Questa è bella. Ho 4 minuti, come faccio? Allora, la Corte dei Conti di Firenze ha aperto, restiamo in tema di sanità, un'inchiesta sul caso dei 117 dirigenti dell'ASL toscana, quella che sta accorpata, che adesso dentro tiene, adesso vi dirò anche qua l'ASL di riferimento, ah sì, Firenze, Prato, Empoli, Pistoia. Perché? Perché hanno speso 94.000 euro per aggiornamento professionale. E tu dici, beh, giusto, no, 117 dirigenti, un po' più di 1.000 euro a testa, l'aggiornamento professionale è importante perché ti insegna come gestire, cosa fanno negli altri paesi. Citavamo il caso dell'Olanda, il manager della struttura sanitaria più importante in questo paese dei medici, delle volte è lì che si blocca la macchina, cioè come si gestisce un reparto, una struttura sanitaria, come si fa un approvvigionamento senza spendere soldi, come ci si mette assieme, come si ottiene l'asta migliore. No, li hanno portati a un summit motivazionale in un resort di lusso in Garfagnana, si chiama Il Ciocco, molti di voi lo conoscono, è di proprietà del senatore del PD Andrea Marcucci e della sua famiglia, ma immagino non c'entri nulla. A fare che cosa? Perché dice, vabbè, hanno fatto tutto questo lavoro in mezzo ai boschi della Garfagnana, tra i castagni, i cinghiali, i lupi, l'ariosto che aleggiava. No, hanno fatto la caccia al tesoro, walkie-talkie e itinerari avventurosi. Si sono pure rivolti a una società famosa, l'Istituto Europeo di Neurosistemica di Sestri Levante, specializzato nello sviluppo del capitale umano. Per favore, lavori molto con i nostri politici e amministratori. E hanno fatto 3 giorni di caccia al tesoro nel bosco, walkie-talkie, itinerari avventurosi. Ma questo non è uno spreco di soldi pubblici? Si giustifica la regione. Paolo Marchese Morello, commissario della regione toscana per l'unificazione delle ASL di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, risponde: no, non è stato uno spreco, perché non è facile trovare un luogo in grado di ospitare 200 persone per un'iniziativa del genere. Aggiungiamo noi, non è neanche facile farsi venire in mente un'iniziativa del genere per 200 dirigenti delle ASL in questo paese come aggiornamento professionale. Non è facile avere idee del genere, non è facile trovare luoghi del genere, non è facile neanche trovare commissari del genere. Massimo rispetto. Ultimo posto, dai, andiamo al numero uno della classifica. And the winner is... Sempre la sanità, l'ospedale San Francesco a Nuoro, una cosa incredibile. Hanno comprato 4 anni fa un TAC di ultima generazione, permette la tomografia computerizzata a 128 strati e costa 1,5 milioni di euro. È dotata di tecnologia a basso dosaggio di radiazioni, giace imballata da 4 anni negli scantinati del San Francesco. Suggeriamo un corso motivazionale anche al direttore della ASL di Nuoro. Perché? Perché si era rotto il vecchio macchinario, ha tirato dal 2003 fino al 2015, il 17 luglio 2015 si è piantato giù, come si dice in gergo, ma siccome non c'è ancora un accordo di dove mettere la nuova TAC, nel frattempo ne hanno comprato un'altra TAC un anno fa, anche lì bloccata per mancanza di spazi idonei. Sapete cosa ha fatto a Nuoro, visto che non c'erano più le TAC? Il 29 luglio 2015, dopo che si è rotta la vecchia TAC, che era lì dal 2003, nonostante ne abbiano 2 imballate per milioni di euro non utilizzate, hanno affittato per 8 settimane la TAC mobile della ditta Fora per 56.000 euro più IVA e più interventi strutturali per 4.000 euro. Praticamente hanno piazzato un container nel piazzale del pronto soccorso, a distanza da tutto, a centinaia di metri dal pronto soccorso, dal reparto di ematologia e quant'altro, senza un bagno, e la TAC si faceva lì. Complimenti al dirigente della ASL e a come viene gestito il San Francesco di Nuoro. Due tacche imballate nuove, ne affitti un'altra, la piazzi in un container senza bagni in mezzo al nulla. È un attacco, non è una prigione, non è una punizione fare l'attacco. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Cosa accade nel settore delle carni e dei salumi dopo le nuove indicazioni dell'OMS? L'atteggiamento del consumatore è stato un po' negativo, soprattutto nei confronti della carne bovina. Qualcosa, soprattutto nelle carni fresche, ha rallentato a livello di consumi. Radio 24, reportage. Carni e salumi, il made in Italy sotto attacco. Di Enrico Pagliarini, questa domenica alle 8.15. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissioni d'ingresso. Focus Economia. Otto e sette minuti, sento aria di weekend in regia, va bene, va bene. Allora, no, vedo che molti ascoltatori al 349-238-6666 stanno lanciando anche idee interessanti, cioè qualcuno si è spinto a ipotizzare che la caccia al tesoro, dove sono stati coinvolti 100 dirigenti della ASL nei boschi, nel resort di lusso in Garfagnana per il summit motivazionale, potesse avere come caccia al tesoro nel bosco, walkie talkie e itinerari avventurosi. Anche andare in un ospedale italiano delle volte in un itinerario avventuroso, però che come obiettivo questo tesoro potesse essere le TAC scomparse nell'ospedale di Nuoro. Certo, è un po', suggeriamo al ministro Lorenzin di mettere assieme tutta questa gestione un po' così di alcune ASL italiane. Cambiamo però non tema, ma cambiamo umore nel salutare Jacopo Vanetti, fondatore di USP o GIUSP. Buonasera Vanetti. Buonasera, il nome è JASP. JASP, non l'ho beccata né in un modo né nell'altro, perfetto, JASP. Allora, cosa fa, lo dico a chi ascolta, noi quando facciamo la classifica dei 5 sprechi della settimana affianchiamo sempre un imprenditore che si è messo in gioco e ha lanciato una startup, quindi un'idea, un'impresa nuova in questi anni di crisi. Cosa fa JASP? JASP è un post portatile. Ok. E viene venduto un post portatile. Quindi una macchinetta che può incassare pagamenti con carte di credito, quindi la classica macchinetta che hanno i negozianti, però con delle modalità differenti. Prima di tutto viene venduto online, quindi uno non deve far andare in banca e comprarselo dal vivo, ma lo compra online, e può collegarci tutti i conti correnti che vuole e costa meno di quello della banca. Cioè, se ho capito, è destinato a chi è in mobilità, cioè tassisti, ambulanti, agenti di commercio? Sì, sia chi è in mobilità che chi ha anche uno store, perché comunque il mobile POS è come un POS, ma fa delle cose anche in più. Store vuol dire negozio, vero? Sì, esatto. Al terzo inglesismo in questa trasmissione uno viene espulso, per cui lei ne ha fatti già due. Va bene. Occhio che ha solo un'altra scena, prego. Va bene. Quindi, no, appunto, dica pure. No, quindi è un dispositivo che voi vendete direttamente agli utilizzatori, non viene noleggiato, ma le commissioni sono alte come su quelle, diciamo, quelle normali di mercato? No, noi facciamo lo 0.99% su tutte le carte e diciamo che se uno si informa sono abbastanza bassi. Cioè la media di mercato quant'è invece? Ma la media di mercato, diciamo che le commissioni vanno dallo 0 al 4% di solito. Solitamente la media è, diciamo, 2%, 1,50. Okay. Noi facciamo 0,99 su tutte le carte. Beh, che tornando al dibattito a proposito dei 1.000 euro portati a 3.000 euro i costi delle commissioni, questa per esempio ha delle commissioni sulle transazioni più basse. Dove l'avete sviluppato questo JASP? L'azienda è stata sviluppata totalmente in Italia. È nata nel 2012 ad oggi. E, dove è nata? Oltre che è nata tra Milano e Cagliari, perché alcuni soci sono di Cagliari e alcuni soci sono di Milano. Ok. Quindi diciamo che... Ma l'avete sviluppata, cioè l'incubatore, sotto quando c'è una startup, dov'è che l'avete incubata? Sì, allora, noi siamo partiti dall'incubatore di Milano, che è quello del Politecnico di Milano. Ah, il PoliHub. Esatto, PoliHub, ci ha ospitato qui e siamo qui da diverso tempo. Ok, e gli altri due soci chi sono? Citiamoli. Ok, sì, allora, uno è appunto... Stefano Calderano, sì, che è un ex bancario, che è amministratore delegato della società oggi, e l'altro è Bruno Spadoni, che anche lui è un ex bancario, e sono stati entrambi investitori della società, e oggi hanno un ruolo operativo all'interno. Allora, lo state già vendendo questo JASP? Sì, da gennaio 2014 che siamo sul mercato, quindi quasi 2 anni che vendiamo questo oggetto. E sta andando molto bene. Quanto fatturate? L'anno scorso mi ha fatturato 800.000 euro. E quest'anno? Le previsioni sono un po' più alte, non è ancora finito l'anno, quindi vediamo. Supererete il milione, possiamo dirlo? Penso proprio di sì, però non vorrei dire numeri in questo momento che non ho davanti. E quindi niente, questo è in più. Diamo un gestionale di cassa come applicazione che gira su tablet, che fa da gestionale, riportistica delle transazioni in tempo reale, strumenti di marketing per l'esercente, tutto questo gratis annesso al POS, perché secondo noi diciamo il POS intelligente deve avere tutto ciò. Quindi oltre a questo POS intelligente che ha con una commissione più bassa, voi fornite anche elementi di carattere gestionale, chiamiamoli così, un software immagino sia, no? Sì, un'app che fa varie cose, okay. È l'app per controllare il POS. Quanti siete, oltre ai 3 fondatori, avete assunto e comunque quanti siete a lavorare su JASP? Siamo più o meno una ventina, e se contiamo diciamo, assunti più o meno una ventina e poi contate i collaboratori più o meno 26 siamo. Ma avete usato anche il Jobs Act o la decontribuzione per assumere? Ma diciamo che per adesso Jobs Act è stata molto utile per vari aspetti, e abbiamo usato anche quello per assumere, sì. Senta, visto che 2 dei soci, Stefano Calderano e Bruno Spadoni, sono ex bancari, immagino che avrete avuto, non dico un canale agevolato, ma avrete avuto anche, avevano le competenze per sapere come andare a chiedere i soldi in banca. Chi ve li ha dati i soldi? Chi vi ha finanziato? Allora, diciamo che i primi soldi li hanno messi loro. E altri investitori. Loro le banche o loro gli ex bancari? Un po' no, diverso. Loro gli ex bancari, con dei loro amici e colleghi, diciamo. Perché. E successivamente invece nel 2013, quindi loro hanno messo 500.000 euro e nel 2013 invece sono entrati 2 fondi di investimento professionali che fanno questo, che hanno messo in totale quasi 5 milioni di euro. Ma cos'è? Un tipo business angel, come si chiamano? Così il terzo inglesismo, sì, io lo abbono esatto. Questi sono business angel, quindi sono appunto persone che hanno un patrimonio e mettono dei soldi in un progetto. Esatto. Ma le banche, nonostante fossero ex bancari, non vi hanno dato nulla ancora? No, le banche no, anzi, le banche guardano con diffidenza tutto ciò che si infila nel loro business. Quindi tutto ciò che? È abbastanza, che entra nel loro perimetro. Diciamo che noi di fatto disintermediamo le banche, perché uno si compra il nostro lei dice chiedere i soldi alle banche per andare a disintermediare quello che è un'attività comunque profittevole per le banche, è un po' come chiedere al marito un po' come se l'amante chiedesse il letto al marito, non so se mi passa questo esempio, però insomma ciò uno finanzia un'impresa se un progetto se è buono o non è buono. In bocca al lupo a lei Jacopo Vanetti, ai 2 soci, ai 24 collaboratori, 24 o 27? 26 erano. 20, non ho beccato né JASP né il numero dei collaboratori. E va bene, non è una gran giornata. Grazie a lei e in bocca al lupo a tutti. La borsa adesso e poi la vicenda Telecom. La borsa la faccio io, vi dovete accontentare oggi, grazie ai dati americani che fanno immaginare un aumento dei tassi ancora più certo nel 2015. Bene oggi tutti i bancari in indebolimento l'euro, e poi ci sono le trimestrali, vale per Unipol che guadagna il 7,34%, ma vale anche per Azimut, anche se in trimestrale sono piaciuti i conti, più 3,56%, poi di nuovo Anima Holding in evidenza con il 4,60% di rialzo, Buzzi Unice in più 3,70%, Banco Popolare più 3,30%, Finmeccanica più 3,30%, Ferragamo e Moncler invece scontano i dati negativi diffusi da Richemont sull'andamento delle vendite in Cina. Ferragamo perde 1,40%. E invece Moncler alla fine ha ridotto moltissimo il calo e ha chiuso anche in positivo dello 0,90%. Tra chi è andato bene, anche oltre i bancari citati, Intesa San Paolo più 2,70%, Ubibanca più 2,60%, Exor più 2,40%, Generali più 2,30%, Pop Emilia Romagna più 2,15%, Unicredit più 2%. Ma il caso di borsa di oggi si chiama Telecom Italia non solo, non tanto per la variazione percentuale, meno 2,43%, ma perché si è scoperto ieri che su iniziativa, se ho ben capito, del presidente Recchi, le azioni risparmio, che sono azioni risparmio non le azioni risparmio non convertibili, le risparmio e basta, che lo spiego a tutti, danno dei maggiori vantaggi di solito nei dividendi, ma non ti permettono di votare, hanno altri limiti, le hanno convertite in ordinarie. Come spiegavo prima, cosa succede? Che se tu avevi il 10% di Telecom perché su 1000 azioni ne avevi 100, adesso se le azioni diventano 2000 la tua quota scende al 5%, perché le tue 1000 azioni a quel punto sono le tue 100 azioni sono a quel punto il 5%, cioè si sono diluite, come si dice in gergo, tutte le quote degli altri. Le conseguenze con Antonella Olivieri dopo il traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento Focus Economia. Allora, Antonella Olivieri, il fatto che si diluiscano le quote degli azionisti precedenti perché hai messo più azioni nel capitale, diciamo così, che conseguenze ha, visto che Javier Niel le sue azioni ha le opzioni ma non le ha ancora come azioni e le può esercitare solo da giugno, però c'è il socio forte di riferimento che è Bolloré e quindi Vivendi, c'è un altro ingresso, da come la capisco io ha l'effetto di diluire i vari pesi, però insomma vorrei andare oltre. No, diciamo che probabilmente stiamo parlando un po' di trame e quindi trame. Diciamo, possiamo intuire quello che si possiamo vedere quello che c'è sopra, possiamo intuire quello che c'è sotto. Certezze non ce ne sono, perché se si tratta di trame i giochi sono ancora tutti da fare, perché non c'è soltanto una trama, ce ne sono tante, ecco. E comunque diciamo la conversione del risparmio non c'è adesso, deve passare da un'assemblea che è convocata per il 15 dicembre, è lì che secondo me voleranno gli stracci, sicuramente, e ci sarà lo showdown. Vediamo, per far capire a tutti però, chi vince e chi perde, so che è brutto dire così, a oggi. Se venissero convertite, con la partita in corso, siamo all'inizio, sì, ma no, che venissero se verranno convertite le azioni risparmio in ordinarie, quindi verranno diluite le quote degli altri, sì, come ha chiesto Recchi, proposto Recchi, chi vince e chi perde? Tutto consiglio, non è tutto solo consiglio, Recchi, ha ragione. All'insaputa dell'amministratore delegato, che se l'è trovata la proposta che aveva fatto lui quest'estate, il primo che se ci l'è perde, trovata quindi chiesta dagli altri. È Patuano, nel senso, sì, che è strano che l'amministratore delegato non sappia che arriva una proposta in consiglio del genere, questo possiamo dirlo. Certo, diciamo, però stiamo parlando di questo tempo, vediamo poi i prossimi. In va ogni bene. Caso, il discorso è... guarda caso Vivendi ha già detto che gli sta benissimo, ci risulta che invece l'altro francese non è che sia stato proprio così contento di questa mossa, che evidentemente Vivendi non aveva programmato. Perché dovrebbe essere contenta Vivendi, visto che scende dal 20 al 14%? Intanto perché proprio in quell'assemblea sarà importante per far passare la conversione del risparmio che il mercato vuole, la posizione di Vivendi, e quindi la posizione di Vivendi è quella che piace ai fondi. Perché dovrebbe andare in assemblea a approvare una proposta che in qualche modo lo diluisce e quindi riduce contro il suo interesse. Peso, eh. Forse c'è un altro interesse, magari quello di rimettere mano al Consiglio portandosi fondi dalla stessa parte. Poi c'è anche un'altra cosa da considerare, che Vivendi ha sempre detto che non vuole fare nessuna OPA, ma non che non vuole crescere. La partecipazione nel capitale di Telecom più è grande e più se la può giocare meglio sul tavolo del consolidamento, certo, europeo. Seconda domanda però, ed ultima, qui di mezzo c'è anche tutta la partita del governo, è inutile girarci attorno. Il Presidente del Consiglio ha chiesto che attraverso la Cassa Depositi e Prestiti con i nuovi vertici, e quindi diciamo Costamagna da un lato e soprattutto Gallia dall'altro, ci possa essere un accordo tra Metro Web e Telecom. Questo ha avuto molte resistenze in Telecom perché dicevano insomma non siamo la stessa cosa, sono un po' spiegato tutta la vicenda. Questa operazione rende meno pregnante la presa del governo, non so come dire. No, allora c'è stata un'altra operazione che è stata approvata ieri, che in qualche modo invece va in un'altra direzione. Cioè è stato approvato un riassetto della rete d'accesso, esattamente come la proposta Patuano, che va proprio nella direzione di favorire invece un accordo su Metro. E devo dire che il governo non si è mai espresso esattamente pubblicamente sulla questione Metroweb e purtroppo ci sono state parecchie voci discordanti anche da parte pubblica. Non capiamo nemmeno qual è esattamente la posizione unitaria pubblica, non c'è in qualche modo. Sì, né Renzi, al di là delle dichiarazioni sulla digitalizzazione del paese, che poi questo è in ballo per il governo, c'è una Telecom che segue il progetto del governo di digitalizzare il paese, la Telecom segue giustamente dal suo punto di vista interessi privatistici e quindi deve vederci anche un utile, su questo non c'era piena convergenza. Però insomma, da quello che ho capito, per chiudere Antonella, questa mossa non informando Patuano, l'amministratore delegato, è una cosa abbastanza non irrituale come mossa, creerà un po' di tensioni, di stracci, quando esattamente, così ce lo segniamo in agenda, 15 dicembre, quando c'è l'assemblea per la conversione del risparmio, vediamo se ci si ferma a chiedere la conversione del risparmio o se arriva anche qualche cosa relativo al Consiglio. E se non arriva qualche altro azionista, perché non dimentichiamo che oggi Orange è tornata a dire che è interessata all'evoluzione delle vicende intorno a Telecom Italia. E quindi potrebbe entrare un ulteriore azionista in Telecom Italia. Esatto. Tutti a Telecom il 15 dicembre, grazie Antonella Olivieri. Ultimo tema, gli Stati Uniti che vanno sempre meglio, beati loro. Dall'aprile del 2008 che la disoccupazione americana non scendeva al 5%, ha creato, gli Stati Uniti hanno creato nel mese di ottobre 271.000 posti di lavoro. Subito tutti hanno scommesso su una cosa, tant'è che l'euro è calato a 1,07. Mario Platero in collegamento con noi da New York, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, ci siamo a Natale, Babbo Natale porterà, Santa Claus porterà il rialzo dei tassi di interesse? Beh, insomma, direi che dopo che l'altro giorno la Yellen ha detto che la possibilità di un aumento è straordinariamente viva, aspettiamo i risultati macroeconomici. I risultati macroeconomici sono venuti con questo dato straordinario: 100.000 occupati in più rispetto alle aspettative, 271.000 nuovi posti di lavoro creati in ottobre. Beh, e questo significa che dopo le incertezze del terzo trimestre, con un dato di crescita dell'1,5%, a questo punto si è un po' più tranquilli. E lo abbiamo visto dalle reazioni del mercato, cioè il mercato oggi ci crede, il mercato ha giocato d'anticipo, i rendimenti dei treasury sono schizzati, diciamo il benchmark a 10 anni, ai massimi di luglio. Quindi i BTP fronte... a 10 anni americani, diciamo. Esattamente. Il rapporto di cambio con l'euro è sceso, voglio dire, l'euro si è indebolito rispetto al dollaro, stiamo parlando di oltre l'1%, siamo a quota 1,07 e questa è un po' la direzione in cui andremo nel momento in cui ci sarà la svolta e subito dopo, e questo tra l'altro appunto creerà dal punto di vista dell'Europa un minimo di maggior vantaggio dal punto di vista dello, insomma, competitività sul piano delle esportazioni, quindi non è che tutto il male viene per nuocere. Però ecco, questo dato di oggi è il dato un po' svolta per lo sviluppo dei mercati. La borsa, devo dire, è rimasta abbastanza tranquilla, entrata in territorio leggermente negativo, la borsa è tesa, ma qui sta cambiando la prospettiva, perché abbiamo avuto JP Morgan Chase che a un certo punto ha sposato, se vuoi, la linea che noi, di cui noi abbiamo parlato varie volte. Cioè che i tassi vanno rialzati. Che i tassi vanno rialzati, non solo, ma che un rialzo dei tassi farà bene al mercato, non male, che la borsa, dopo magari un piccolo momento di tensione, reagirà sarà più sana. Perché? Ma sì, ma perché i tassi aumenteranno pochissimo, pochissimo. Senti Mario, ma se io ti dicessi che è ancora presto per fare un bilancio di Barack Obama, però che insomma Barack Obama prese 8 anni fa, insomma nel 2008, prese un'America lasciata l'eredità di Bush Jr., fu un disastro nel Medio Oriente e in Iraq, possiamo dirlo tranquillamente, con l'invenzione delle armi chimiche di Saddam, basta guardare cosa... è un'economia in ginocchio per lo scoppio della crisi, ha vinto sul fronte delle riforme economiche, ha perso sul fronte della politica estera. Ti andrebbe bene un commento del genere? Sì, direi che dal punto di vista dell'economia, sai, lì non è che, certo, Obama poi ha continuato, ma l'impostazione di quello che ha fatto Obama, e questo è uno straordinario, devo dire, una straordinaria dimostrazione di come nei momenti di difficoltà poi l'America si raccoglie sotto uno stesso ombrello. C'era stata un'impostazione del lavoro già sotto George W. Bush, perché la crisi è scoppiata sotto la sua amministrazione, ma già lavoravano insieme con Larry Summers e con gli altri, l'hanno impostato insieme, Bernanke, Summers, i consiglieri di Bush, i consiglieri che stavano entrando di Barack Obama. È un piano di straordinaria manovra fiscale e monetaria che noi in Europa l'abbiamo fatto. Ho visto proprio l'altro giorno dei grafici in cui si vedeva come improvvisamente le prospettive di crescita dell'economia stavano precipitando, e così pure della produttività e dell'occupazione. Poi a un certo punto si vede che c'è una svolta ed ecco che la curva torna improvvisamente a risalire gradualmente e poi risale verso la normalità. Cioè stavamo precipitando al di sotto... Certo. Dei minimi del 29. L'Europa non ha fatto lo stesso. Ha fatto l'opposto. L'Europa non lo so. Siamo trovati nei problemi che noi conosciamo. Beh, insomma, la verità poi è una: i fatti parlano chiaro. L'America è uscita dalla recessione stampando moneta, fregandosi nel deficit, avendo come unico obiettivo la disoccupazione e la ripresa dell'economia. Noi abbiamo fatto 5 anni con il rigore tedesco e del Nord Europa, e chi se ne frega della disoccupazione, dei consumi interni, importante era il deficit. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Comunque, grazie a Mario Platero in collegamento con noi da New York, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi questa settimana per l'assistenza in redazione. Non dico grazie a Graziella, ma grazie a Pietro La Corte per l'assistenza in regia. Ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24. La passione si sente.